Ora che i soldi per comprare tutto non servono a cancellare il ricordo e il lutto di alcune volte in cui il mare in inverno porta botte lividi, rimangono le rotte impure, labili di mille dolori che cancellano il sereno, che cancellano il sereno. Vorrei solo il cielo dolce che curi ogni cicatrice, il curioso mio insano sapere verace non trova matrice. Vorrei sapere il vero più di quanto desideri avere, lasciami conoscere le orme del sole. Spero che basti il mio paio d'ali per sopportare il vertice di tutta la conoscenza, ma io voglio sapere la matrice. Per avere il sapore del vero più di quanti desideri avere, lasciami conoscere le orme del sole. Ho conoscenza di tante cose, ma tutte sommate nell'uno del mio spirito in rose rosse sembrano non essere niente. Per avere un'opinione vera del mio unico più che avere, lasciami conoscere le orme del sole. Ora che ho soldi per comprare tutto, non servono a cancellare il ricordo e il lutto di alcune volte che il mare in inverno porta botte lividi, rimangono le rotte impure labili di mille dolori che cancellano il sereno. Vorrei solo un cielo dolce che curi ogni cicatrice, il curioso mio insano sapere verace non trova matrice. Spero che basti il mio palio d'ali per sopportare il vertice di tutta la conoscenza, ma io voglio sapere la matrice. Ho conoscenza di tante cose, ma tutte sommate nell'uno del mio spirito in rose rosse sembrano non essere niente. Avere, conoscere sono il mio traguardo, nel rinascere solo il mio uscire fuori dal sapore del dolore, dentro fiorire di verità per agire contro la mia imminente semplicità. Ora che ho soldi per comprare tutto, non servono a cancellare il ricordo e il lutto di alcune volte che il mare in inverno porta botte lividi, rimangono le rotte impure labili di mille dolori che non cancellano le cose sotto.